E me lo porto a Gallarate. Mamma mia, ma io l'ho sentito in certe interviste dire che avrebbe volentieri passato. Sì, perché lui abita a Los Angeles, ma si sa che tra le due città non c'è assolutamente paragone. Voglio dire, quello che offre il Varesotto, Gallarate, nel preciso, è tutta un'altra cosa. Vabbè, sì, tranquillo, sì, se no, devi rispondere con i messaggi, fallo pure. Tra l'altro devo sistemare il ragazzo un attimo. Detta così. Anzi, ne approfittiamo per ringraziare Walter e tutti i ragazzi bar La Cale, ecco, esatto, che si trova in via Filzi, che per anni ci ha sopportato, per anni ci ha aperto anche dei conti. Insomma, però siamo bene o male stati regolari nel pagare. Guarda, male. Per farsi abbonare gli ultimi. No, è vero. Però è vero, quanti pranzi, quanti aperitivi, quante cene, In realtà più che nel mio caso più che pasti, quanti fuori pasti. Io ci sono finito sempre negli orari dove ero. Quante birrette insieme al buon Roccia. Non solo birrette con Roccia. Vabbè, grazie mille veramente a tutti i ragazzi del bar, insomma a tutti i bar. Mancheranno anche loro, ma volendo, se vogliamo venire a prendere un caffè. Facciamo come i nostri ex colleghi, prendiamo un giorno di ferie e li passiamo al bar. Esatto. C'è qualcuno che lo fa. Va bene, grazie, da dopo, intanto Foo Fighters. Con Long Road to Ruin, 13:09, saluto Filippo, caro Filippo, ho letto metà dello striscione perché c'è un po' di vento, quindi si è piegata la parte sotto, ma adesso farò in modo di leggere il resto. Saluto anche Tino, caro Tino, dovevi accelerare mentre ero in macchina. No, sto scherzando, scusate, questa è una cosa che purtroppo capisce solo Tino, ma è meglio così. Un bacione a G-Max, un bacione a Giorgio, a Carla da Firenze. Saluto anche Jack77, un bacio grande grande grande, dice spero tornerete tutti insieme, questo sarebbe bellissimo, però non so fino a che punto sia possibile. Sarebbe fantastico, figurati. Poi salutiamo anche i ragazzi del Genoa Club, grandi grandi, Serena, Rosario, Fabio, Bomba. Poi, un bacione a chi ha 200 cassette del suo archivio di Rock FM, grande, grande, che carino. Un bacione anche a Garbo, mamma mia che tristezza non poter essere con voi oggi e domani, però vi giuro che ogni muro di Londra avrà la scritta io amo Rock FM, grande. Poi mandaci magari le foto. Qualcuno ci chiede, Giuse da Savona, avete visto Into the Wild? Sì, dice alla fine con il battito e il respiro sì, che si fermano, è molto rock. Per le 18 di domani pensateci. Beh, ci stiamo pensando a qualcosa, sì, anche perché ognuno... l'ultima ora penso sarà caratterizzata dai saluti, dalle nostre canzoni. Ognuno di noi sceglierà una canzone. Insomma, vedremo cosa sarà l'ultimo secondo di Rock FM. Poi, bacione a Francesco da Savona, Zurgo da Lucca, Joe, l'autista... È vero, tutti quelli che per lavoro devono passare tante ore in macchina e ci chiedono come faremo, cosa ascolteremo. Noi non possiamo buttare la radio perché ci serve, perché lavoriamo in macchina, cosa ascolteremo? E questa è un'ottima domanda. Poi, Claudia però, Claudia Edo, non si può fare pubblicità dei film per radio, siete d'accordo? Enegramaro? Allora, in Negramaro passeranno questa sera, tra l'altro loro sono stati carinissimi con Rock FM e li vogliamo stra ringraziare. Un bacione a Johnny Blade, toccante il discorso di Faulisi di ieri sera, non l'ho ascoltato, lo farò tra pochi minuti. Jazz, Andre, Lela da Pisa, Sheila, Stefania da Genova, Thomas, Frank 64, Giada, magari sto risalutando quelli che ho già salutato, Max da Genova, tutti quelli che in questo momento ci stanno scrivendo dei messaggi bellissimi. Adesso darò un'occhiata anche alle mail, giustamente. Però quelle sono un po' lentine, quindi sto leggendo per quello appunto gli SMS. In questi 15 anni ho rotto anche parecchio le scatole con questa canzone perché secondo me è meravigliosa. Cry for Love, lui ovviamente è il grandissimo Iggy Pop. una canzone meravigliosa resa ancora più bella dalla voce di Iggy Pop. Questa era Cry for Love, 13:16. Allora vediamo un po' gli ospiti che arriveranno nei prossimi minuti. È una parola un po' grossa, però oggi veramente ci saranno con noi a partire dalle 18 i personaggi che hanno fatto parte di Rock FM, del cast di Rock FM. Rivedere alcuni sarà veramente emozionante, perché non li vedo da una vita, e purtroppo questa è un'occasione triste per ribeccarci. Però vabbè, insomma, dalle 18 in poi carrellata di ospiti. Nel pomeriggio ci saranno con noi anche gli Starla, i Fratellis, attenzione, tararan tararan, gliela canto, giuro, gliela canto. Oh, mi avete sempre massacrato perché in onda sono stonata, e io sono stonata nella vita. Ai Fratelli se la canto la loro Chelsea Dagger. Chiudiamo in bellezza. No. Comunque, a che ora i Fratelli? Su un attimo, guardo, alle 14:30 verranno ovviamente in parte a presentarci il nuovo album, ma in parte anche direi un po' a cazzeggiare, dai, insomma. Adesso non possiamo mica fare le cose seriamente. Siamo nelle ultime dirette, quindi no. Vogliamo le cose serie, vogliamo le cose allegre, così almeno ci distraggono un pochettino. Dopo i Hip Hop in arrivo ci sono i Volbeat, questa è Sad Man's Song. Well, my mama told me, son, you better watch out. All those nasty women are gonna rip you down for time. But I got my pocket full of real tears and the broken kids I know. From a sad man told. La cosa più inquietante, e lo metto tra virgolette, è che molti ascoltatori, soprattutto quelli magari che seguono la radio dagli anni 90, dal 94, dal 95, mi stanno mandando alcune foto realizzate, mie, realizzate appunto insieme agli ascoltatori. Mamma mia, Moira degli elefanti, certe volte col trucco è più leggera. In alcuni sembra anche un po' un panda, li sto guardando, mi fanno tanta tenerezza. Grazie per così stimolarmi nel cambiare subito taglio di capelli e il resto, perché sono veramente, alcune foto fanno veramente tenerezza. Però bello, anzi grazie, se ne avete mandatemele. Io sto stampando qualsiasi cosa, sto tenendo tutto, quindi mi farebbe piacere ricevere queste vecchie foto. Moira degli elefanti, detta anche Claudia di Rock. Vabbè. Cosa abbiamo ascoltato? Non lo so, non mi ricordo. Però so che in arrivo ci sono i Three Doors Down, questa è It's Not My Time. Looking back at the beginning of this and how life was, just you and me and loving all of our friends, living life like an ocean. But now the current's only pulling me down, it's getting harder to read. It won't be too long and I'll be doing nothing. Can you save me from this? Down con It's Not My Time. Stavo cercando di ricordare il titolo della canzone passata invece qualche minuto fa, ma questa è una cosa incredibile, non la ricordo, ma alla fine chi se ne frega, visto che oggi non sia, oggi è una programmazione speciale, non siamo qui tanto per la cioè in senso sì anche per la musica, ma per così passare in una maniera particolare queste ultime ore di diretta della radio. Insomma, come ben sapete, domani sera alle 18 via Rock FM morirà. È brutto di, insomma, dire questa cosa, però per noi in effetti è così. Da domani sera, dalle 18 in poi, esisterà solamente rockfamily.it. Tutto quello che, insomma, è stata Rock FM, noi lo sappiamo perché l'abbiamo creata noi, però da domani, a partire dalle 18, basta, purtroppo, e ovviamente non è stata una decisione nostra. Saluto anche Mirko. Allora, il gruppo che canta Sad Man's Song erano i Volbeat, band danese. Saluto Lorre. Saluto Brutus, dice il pezzo dei Clawfinger sarà il brano che quando l'ascolterò mi verrà in mente la Claudia. Eh sì, perché abbiamo passato quella canzone per tantissimo tempo. E in effetti sì, l'abbiamo, non dico resa famosa noi, però l'abbiamo veramente stra proposta. Saluto Andrea, certo, ci si vede alla Flog per un abbraccione mega, anzi un abbraccio circolare, come direbbe giustamente il mio collega Mox. Farvi complimenti è superfluo, mentre dirvi che rimarrete sempre nel nostro cuore è la sola verità. Ci si vede domani, saluto anche il dottor Andrea da Genova che ci manda questo messaggio bellissimo. Courtney e Kurt, ci mancherete, non avremo mai più una radio così, chi ci darà voce in questo paese vendutissimo? Hai ragione. Riccardo da Lucca, adesso giuro che sto leggendo anche le mail, sto facendo un lavoro di copia e incolla per riuscire così a salutare tutte le persone che ci hanno scritto, perché anche sms meravigliosi, però molte mail molto belle. Sto facendo un lavoro di copia e incolla, l'unica cosa che so fare con il computer. 15 anni, ho imparato veramente un sacco. Adesso vi lascio con una canzone dei Van Halen che ascoltiamo con Love Walks In. t-shirt con il logo di Country Skyline e di Rock FM in regalo ai primi 100 che si prenoteranno alla serata di venerdì 23 maggio, Country Skyline Farewell Night. Una serata con i turnover sul palco del Milwaukee 50s Diner e un DJ set di Maurizio Faurisi. Invia subito una mail di prenotazione a info@milwaukeediner.it o telefono allo 0362 583 073. Il locale si trova a Varedo, in provincia di Milano, sulla superstrada Milano Meda. Informazioni su www.milwaukeediner.it oppure www.myspace.com/Maurizio Faurisi. Rock FM Spot. Rock FM presenta Cinema, quotidiano di informazione cinematografica. Una mitica città. La leggenda narra che un teschio di cristallo fu rubato da una città dell'Amazzonia. Un antico segreto. Chiunque lo restituirà avrà il controllo del suo potere. Lei lo troverà. Marta. Harrison Ford. Prendetelo! Un film di Steven Spielberg. Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Al cinema. Cinema. Ciao, mi chiamo John Ryder. Ti dispiace darmi un passaggio? Se lo farete salire a bordo, non avete neanche il tempo di pregare. Spegni il motore, ti prego. Non posso. Felice. Dal 30 maggio al cinema. Cinema. 01 Distribution presenta. Il 30 maggio hai un appuntamento con il film più atteso dell'anno. Abbiamo deciso di sposarci. Che dici, un diamante? Non regalarmi un diamante, solo un armadio gigantesco. Kerry, Samantha, Charlotte, Miranda. Sex in the City. Dal 30 maggio al cinema. Cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Best rock and roll station in the world is Rock FM. Thank you. con Strange Kind of Woman. Allora, un po' di saluti, un bacione a Rob da Genova, un bacione al nostro Simone, autore di Arden Devi, mamma mia, ecco Simone uno di quelli che mi manda le foto, quelle belle degli anni 90, dove c'è questa acconciatura incredibile. Grazie Simone per tutto quello che hai fatto per Rock FM, per la grandissima mano, per Arden Devi, per le interviste, per la tua disponibilità, insomma. Un ragazzo che praticamente è venuto e ha collaborato con noi a titolo gratuito, solamente spinto dalla sua grandissima passione per la radio e per il metal, quindi veramente un idolo. Grazie Simone, sempre molto carino. Andrea dice: oggi dovrei essere contento per il mio 35esimo compleanno, ma la tristezza avanza come la fine della radio. Mi consola ascoltandovi in questo fantastico momento di celebrazione della radio con tutti questi ospiti. Andrea, tanti auguri, domani tra l'altro è il compleanno di Garavelli, bisogna fargli una sorpresona, anche se la sorpresona è già arrivata, brutta però. Però non dobbiamo assolutamente dimenticare questa cosa. Saluto Rita, mi ha mandato una mail bellissima, tu mi puoi capire, questo era l'oggetto. Dice: allora vado a fare la spesa, torno a casa, macchina in garage, recupero i sacchetti della spesa, chiudo la macchina, il garage e le chiavi di casa, chiuse in macchina con le chiavi del garage, ovvio. Quante volte l'ho fatto anch'io. Dice: fortunatamente il cancelletto di uscita era aperta, cancelletto che non si apre con l'apriporta ma solo con le chiavi. Vai a piedi sotto la pioggerellina a casa della mamma, recupera le chiavi di casa di scorta e incredibilmente anche la chiave extra del garage. Torno, scendo a piedi la rampa del garage, bam, scivolata e bella culata. Sono bei momenti, Rita. Tutto questo poi con la pioggia è veramente bello. Sì, ma guarda, io ti posso capire, anche io ieri sono scesa a prendere il treno, avevo le mani piene di sacchettini, zaino, e ho sentito il piede che stava scivolando, ho detto: è finita, basta, perché se scivolo ovviamente prendo una culata mostruosa. Avendo l'ernia in questo periodo, che è una meraviglia, si fa sentire tantissimo, ho detto basta. Io già in un secondo mi vedevo lì sdraiata sulle scale della metropolitana con l'ambulanza, vedevo un po' questo finale tristissimo. Invece fortunatamente non è successo, perché non so come ho fatto, ma non sono caduta. Un bacione anche a Francesca, un bacione anche a Cassandra. Che carina, dice: non ho avuto modo di mandarti prima nessun messaggio. Sono salita in auto e ho sentito la tua voce rotta dalla commozione, ieri mi ha fatto venire lacrimoni. Ma tra l'altro pare che ieri in questo mio momento di commozione ho fatto venire lacrimoni a diversi. Abbiamo pianto tutti insieme perché siamo una grandissima famiglia, nel bene e nel male. Ci stava. Allora, 13:40, in arrivo una bella canzone registrata nei nostri studi, ringraziamo anche gli After Hours. Grandi, carinissimi e super super solidali. Questa è tutta. Sì, aiuto. After Hours, la mia città, registrata qui a Rock FM. A vivere da pipistrelli chiusi in scatole, la libertà sentirti sola con chi vuoi, più di quello che sei, meno di quel che vuoi, la mia città, la mia città, la mia città. Siano guai di urbanità, di lancio centrica, chi affronterà i maglioncini degli insorti, blog room e cocaina per battere il sistema, chi salverà la mia città, la mia città. Chi salverà città, la mia città, la mia città, la mia città, la mia città. Questa canzone è stata registrata nei nostri studi After Hours con La mia città. Un bacione anche ad Ale 22, che bello, mi hai un po' riportato indietro nel tempo, quando i primi anni arrivavano tantissimi fax, perché non c'era la mail, o c'era, però non, insomma, si interagiva praticamente con i fax. Bello, grazie. Dice: non vengo in radio se no mi metto a piangere. No, già qui abbiamo tutti la lacrima facile, non vogliamo vedere gente piangere, che se no, ragazzi, io inizio e non finisco più, eh? Saluto anche Frinz 78, un bacione. Toki dice: a me mancherà la leggerezza di un sorriso, un'emozione portata dalle vostre voci, dalla vostra musica. Salutiamo il camionista malvagio, quanto tempo. Saluto Francesco 71 da Savona. Un bacio a Adela da Firenze, dice qualcuno dice: a Firenze piove, ma chi se ne frega, fino a quando vi sento sto bene. Alessandro, eccolo. Ci vediamo alla vlog? Assolutamente sì, ci saremo alla vlog, assolutamente. Qualcuno mi dice, il rinnegatore dice: e adesso cosa faccio da lunedì? il mio vero lavoro era ascoltarvi. caro, guarda, non lo so. Qualcuno mi chiede: più la rabbia o la delusione, qual è l'emozione più forte, qual è il sentimento più presente in questo momento? Non lo so. In questo momento c'è anche tanta stanchezza fisica e mentale, tanta, perché sono stati mesi veramente difficili. È stato difficile comunque andare in onda sapendo che c'era un countdown e sapendo che tutto questo sarebbe finito. C'è tantissima rabbia, tantissima rabbia per l'indifferenza con cui qualcuno in questi mesi ci ha trattato, comunicandoci semplicemente una chiusura e poi indifferenza totale. Questa è una cosa che ti lascia tantissimo amaro e ti lascia veramente una rabbia incredibile. Tantissima rabbia perché secondo noi non c'era un motivo valido, non esiste un motivo valido per spegnere, per uccidere una radio del genere. Uccidere come termine forte, lo so, però è quello che qualcuno sta facendo con Rock FM, una radio che ha dato tantissimo in questi 18 anni, i miei colleghi. Adesso io sono la più cialtrona, sono quella che sicuramente a livello tecnico, sicuramente per molti versi sono quella che ha dato di meno, però se penso agli sbattimenti nel senso buono che hanno fatto i miei colleghi, al lavoro, se penso alle ore che hanno passato qui in radio, e credetemi, non per soldi, perché abbiamo lavorato in passato per tantissimi mesi senza uno stipendio, abbiamo veramente faticato tantissime volte per 2 lire, e quindi tutto il lavoro spinto da amore e passione. Se penso a quello che hanno fatto i miei colleghi, se penso alla leggerezza e all'indifferenza, alla cattiveria con cui qualcuno sta mettendo fine a questo, una parola mi viene spontanea in questo momento, ma non è bella, e poi non vogliamo assolutamente creare questi momenti così bassi, perché noi siamo superiori di gran lunga a queste persone che, ripeto, secondo me dovrebbero cambiare lavoro e anche paese, va. In arrivo c'è Nick Cave, insieme ai suoi bezzizzi, ovviamente questa è Dig Lazarus Dig. His nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. Collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Up names names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. City, man, San Francisco, L.A., I don't know, but Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. He ended up, like so many of them do, back in the streets of New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Ultima dimostrazione di quanto la ragazza che vi sta parlando in questo momento è stordita. L'altra sera rimango in radio fino a, non so, erano le 8:30, prendo il treno, arrivo in stazione a Gallarate, vado a prendere la macchina e dico: ma io stasera dovevo fare qualcosa. E vada via i chap, come si dice un po' a Milano, adesso non so se l'ho detto correttamente, era la sera in cui suonava Nick Cave. Io mi sono completamente dimenticata del concerto di Nick Cave. E quante volte l'ho detto ai tempi del Tour de Force, e quante volte l'ho detto anche in onda: oh ragazzi, tra poco arriva Nick Cave, bello, dai, tutti insieme a vedere Nick Cave. E poi mi sono dimenticata. Vabbè. Però ormai era tardi e non ce la facevo. Oh, comprerò un'agendina, perché no? E allora ci sono gli Audioslave, questa è la bellissima Like a Stone. parlato anche nel corso di questi anni tantissime volte di Chris Cornell, della famosa intervista anche realizzata con lui. Quanti bei momenti ci ha regalato questo fantastico uomo, anche con gli Audioslave, con questa bellissima Like Stone. Allora, un bacione da Andrea di Livorno, dice: qualche tempo fa si parlava in radio dello striscione della curva nord del Livorno per Rock FM, infatti abbiamo visto le foto, grazie, che bello, grazie. Stanno arrivando tantissimi messaggi. Giuliano da Genova, saluto anche Acio, un bacione. Andrea da Genova dice: ho la speranza che da un momento all'altro annunciate che era tutto uno scherzo. Magari, guarda, in questo momento pagherei oro per sentire questa la prima parola non sarebbe molto carina. Se mi dicessero in questo momento: guarda, era uno scherzo, direi ma va, poi però sarei la donna più felice del mondo. Però purtroppo non è uno scherzo. No, magari. Sono le 13:56, allora vi lancio l'ultima canzone. Eccola, casualmente. L'ultima canzone del mio spazio, poi vi ricordo nel pomeriggio ci saranno i fratelli, ci saranno tanti ospiti, soprattutto a partire dalle 18. Un sacco di amici verranno a trovarci. Quindi ci sentiamo dopo. Vado a mangiare qualcosina, perché sennò... Un bacione grande, intanto vi lascio con i Bullet from My Valentine, casualmente, e questa è Scream and Fire. A dopo! Right now it's killing time. Oh, that's wrong. Direttamente da New York, il virtuoso chitarrista Rob Balducci in Italia per Delle Clinic. Il 30 maggio presso Lucky Music, Viale Cassala 72, Milano alle ore 21. Il 31 maggio a Genova presso Storti Strumenti Musicali, Via Fiascella 23 alle ore 15:30. Rob Balducci. Questo programma è stato offerto dalla mitica caramella Zigulì. Rock FM Spot. Starla, il primo album di una rock band rivelazione. Starla, tensione, rabbia, rock alternativo. C'è un fiume in piena che mi salva. In CD, in digitale ed in tour. Starla, l'album di debutto su etichetta Orange Park Records. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock. Rock FM. Everybody's kicking sand.